Una tecnica molto diffusa per evadere il fisco è quella di scrivere su un finto scontrino in caratteri minuscoli la dicitura non fiscale, pensando che nessuno, tantomeno il fisco, se ne accorga. Addirittura, in molti casi, si arriva a fare commerci e affari sconosciuti all'erario. Emblematico il caso di due astuti commercianti cinesi che rilasciavano ai clienti scontrini identici a quelli regolari, se non che recavano appunto questa piccola scritta che faceva tutta la differenza, non fiscale, e il risultato era quindi quello di un'evasione totale. Utilizzando questo trucco, i due commercianti sono riusciti a truffare il fisco per circa 600.000 euro, finché l'inganno non è stato scoperto dai finanzieri, che hanno anche avviato due verifiche fiscali, nonché accertamenti sui conti correnti bancari, sia dei titolari, sia dei loro familiari. E dire che basterebbe controllare il foglio di carta stampato per stanare chi finge di essere in regola. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.